Non c'è bisogno di ricerche scientifiche per dimostrare che felicità e gentilezza sono due cose estremamente collegate, anche se le ricerche in realtà ci sono state. Ognuno di noi ha sperimentato tante volte nella vita che un gesto di gentilezza ci rende felici, o come direbbe Gesù, c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Chi è felice poi tende ad essere anche più gentile, e quindi felicità e gentilezza sono due cose che si richiamano a vicenda in un bel circolo virtuoso. Un'ottima palestra di gentilezza possono essere anche i rapporti con i propri vicini di casa, perché no? Ecco quindi 15 gesti di gentilezza che possono far crescere un bel clima all'interno del proprio condominio. Aggiungine altri nei commenti se te ne vengono in mente. Quando arrivi nel portone e c'è qualcuno che ha appena fatto la spesa, offriti di aiutarlo a portare le borse. Quando vedi qualcuno in lontananza che sta arrivando verso l'ascensore, aspettalo e tienigli le porte aperte. Se ascolti musica o vedi la televisione, non tenere il volume troppo alto per non disturbare i vicini, specialmente in certe ore, al mattino presto oppure nell'ora del riposo pomeridiano o alla sera tardi, e magari anche d'estate quando le finestre aperte amplificano i rumori. In occasione della Pasqua, del Natale o di altre ricorrenze, prova a preparare qualche piccolo cesto regalo da offrire ai bambini del tuo vicinato. Loro ne saranno sicuramente molto contenti e non se lo dimenticheranno. E soprattutto questo gesto potrà anche far crescere il rapporto con le loro famiglie. Se hai la fortuna di curare qualche piccolo orto, regala qualche verdura fresca ai tuoi vicini. Offri il tuo aiuto a qualche vicino che pensi che potrebbe averne bisogno, non limitandoti però ad una generica offerta di aiuto, ma offrendoti di fare qualcosa di concreto. Ad esempio, se una persona ha appena avuto un bambino piccolo, potresti chiederle se ha bisogno che le prendi qualcosa mentre vai a fare la spesa. O magari, se avete molta confidenza, le puoi chiedere se puoi darle una mano, magari anche soltanto per 10 minuti o mezz'ora, ad accudire il bambino. Quando si hanno bambini piccoli, anche avere soltanto che 10 minuti, un quarto d'ora per farsi una doccia con calma piuttosto che sistemare qualcosa in casa può essere veramente un grande aiuto. Stesso discorso per gli anziani. Anni fa una persona anziana mi ha detto: la mia vicina mi chiama spesso e mi dice se ha bisogno di qualcosa me lo dica, ma io mi sento in imbarazzo a chiederle qualcosa. Non potrebbe essere lei che quando magari va a far la spesa mi viene a suonare al campanello di casa a chiedermi se ho qualcosa di cui ho bisogno? Allora mi toglierebbe dall'imbarazzo e per me sarebbe sicuramente un grandissimo aiuto. Se hai figli piccoli, cerca di limitare il rumore dei giocattoli buttati per terra, magari coprendo il pavimento con pavimenti morbidi che attutiscono il rumore. O se invece nel condominio ci sono bambini piccoli, cerca di essere paziente verso di loro. Che triste quando sento famiglie che mi dicono: i bambini fanno un po' di rumore, è naturale, ma che brutto quando mi vengono sempre a rinfacciare questo. Anche perché, voglio dire, siamo tutti stati bambini, siamo tutti stati rumorosi, abbiamo tutti dato un po' fastidio ai nostri vicini, e magari fino a qualche anno fa anche i nostri bambini facevano lo stesso nei confronti degli altri. Invita al pranzo delle feste qualcuno che sai che potrebbe rimanere da solo, gli faresti veramente uno splendido regalo. Magari non accetterà, ma sicuramente apprezzerà il tuo pensiero. Se è brutto tempo, fa freddo, è nevicato oppure ci sono le strade ghiacciate, fai un giro dei tuoi vicini anziani per chiedergli se stanno bene e se hanno bisogno di qualcosa. Fai una torta, poi suona al tuo vicino e digli: guarda, questa torta che ho fatto mi sembra che mi sia venuta proprio bene, te ne ho portato un pezzo per assaggiarla. Vedrai che sarà un gesto apprezzatissimo e che porterà dietro di sé tanti altri bei gesti e tante altre cose belle. In prossimità del Natale, prova ad organizzare un momento per preparare un presepe condominiale o un albero di Natale in cui ognuno dei tuoi vicini possa portare una pallina. Ancora meglio se tutto questo lo farai insieme ad altre famiglie. Ancora meglio se riuscirai anche a coinvolgere i bambini del palazzo. sarà un momento molto divertente, molto di aggregazione, è un momento che i bambini aspetteranno molto volentieri per l'anno prossimo. Quando vado a benedire le famiglie, ci sono tantissime persone che mi dicono: è certo che non è più come una volta ci conoscevamo tutti nel palazzo, adesso ci sono tante famiglie nuove che non sai neanche chi sono, come si chiamano e cosa fanno. Ma io mi chiedo, in questi casi, quando arriva una famiglia nuova nel tuo condominio, di chi è il compito di presentarsi, il compito di fare il primo passo? Credo che sarebbe bellissimo se chi abita già in quel palazzo da tanto tempo porta magari un pacchetto di biscotti, invita a prendere un caffè, insomma la fantasia potrà suggerire il gesto giusto per far vedere che il condominio è qualcosa di vivo, che i vicini ci sono, che possono dare una mano se bisogno. Non aspettare che siano le famiglie nuove a fare il primo passo, ma prova tu a rivolgerti a loro con amicizia e offrendogli la tua conoscenza. Abbi cura di non ingombrare gli spazi comuni con mobili oppure con sacchetti dell'immondizia. Se in qualche caso ti capita di dover lasciare il passeggino per comodità, magari avvisane i vicini, sicuramente sarà un gesto che sarà molto apprezzato. Non fare pettegolezzi e non parlare mai alle spalle dei tuoi vicini, tranne che in un caso. Se hai da dire qualcosa di bello su di loro, allora fallo, si diventa un gran pettegolo del bene. Allora ci proverai? Fammelo sapere nei commenti e fammi anche sapere quali sono i gesti che tu stesso compi per rendere il condominio un luogo più familiare di incontro in cui si possa vivere bene. Condividi questo video con tutti i tuoi vicini di casa. Lascia un mi piace se vuoi, iscriviti al canale attivando la campanella per ricevere tutte le notifiche. E vai anche su comunicaresorrisodidio.it, troverai tutti i vecchi video e anche gli articoli testuali. E se vuoi vai nella sezione iscriviti per lasciare il tuo indirizzo email per ricevere tutte le novità.